senti? Ti arriva la mia voce? Oh. Ora sì, ora sì. Come ora sì? Yeah. Vedi che arrivi in ritardo allora. L'importante è che siamo dritti sulla musica, nel senso io ti, per esempio ti canto così, guarda. No, minchia, ho sentito che modo è arrivato ora quello che è suonato io. L'ho cantata giusta? Sì. Ma non è importante quello, l'importante è che suoniamo a tempo. Ho capito, ma mi sa che prima eravamo per caso a tempo perché stavamo facendo sempre lo stesso giro, se no non siamo a tempo. No, no, no, no. No, no, no. Non credo. Proviamo a fare allora, facciamo così. Un countdown. La seconda battuta mia, cioè il secondo giro, dopo il secondo giro ti attacchi tu, ok? E tu ti fermi al terzo. Cazzo vostro, cacazzo. Davide, fai un'altra volta l'intro di Petrucciani e io ti suono la frase, ti suono il tema no, iniziale, così provare. Vediamo se siamo giusti no, o no. No, lei lo ascolta. Io faccio una scala. Al secondo giro ti faccio la... Io faccio una scala, parto dal Do. Sì. E faccio due quartine, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sola, Si, Do. Sì. E poi tu attacchi sul Re e fai altre due quartine. Mm-hmm. E vediamo se ci leghiamo. Mm-hmm. Ok. Che vuol dire sul Re? Che poi tu attacchi le quartine partendo dal Re. No, rifallo, rifallo. Allora, praticamente succede una cosa strana. Allora, rispetto a quando sono io, passa del tempo. Cioè, in teoria doveva essere tutto di seguito queste quartine, invece cioè, eravamo intervallati da un vuoto, no? Ma questo è normale perché noi non siamo a tempo, cioè noi non stiamo suonando in tempo reale, lui posticipa in modo che, noi che a noi sembra che suoniamo a tempo. Quindi facciamo sta prova, vediamo se ho capito bene come funziona. Tu fai l'intro di Petrucciani e io sul secondo giro mi azzecco con la frase, vediamo se lo facciamo giusto e se tu senti la frase in tempo reale. La faccio Fallo a pure io la tempo frase, però, eh. vediamo se ci sovrappone. Ok. Capito cosa succede? Succede una cosa strana, nel senso bisogna stabilire, cioè è impossibile andare a Sovrapposta? tempo. Tu dici? Perché siamo sfasati di un giro proprio. Da quanto ne ho capito, lui praticamente registra quattro battute, ti invia il pacchetto a te e poi tu puoi suonare su quelle quattro battute. Però finché tu registri su quelle quattro battute, passano altre quattro battute e quindi poi io devo aspettare le tue quattro battute per andare a tempo io. Quindi se improvvisiamo su un 2-5-1, quello lì, siccome è sempre tutto uguale, restiamo sempre là su quel giro, quindi o lo fai prima o lo fai dopo, non cambia niente. Credo.